ذكرك فينا ما بننساها أخي. قد ما يوصفك لسان بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي. لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي. أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي. صاحب العرق وغربي فلسطين اتبنتك واصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي. جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم E quindi 87.9, insomma, vi sfumiamo per quest'oggi questa bellissima sigla che riguarda i Darsh Team da Gaza, questa canzone, insomma, famosissima in tutta la Palestina, questa versione dedicata a Vittoria Rigoni. E noi siamo qui, insomma, con un ospite perché venerdì c'è un'iniziativa all'ex Snia Viscosa, via Prenestina 173, quindi ne volevamo parlare. Radici, Praver non passerà. Questo è il titolo dell'iniziativa. Se ti va innanzitutto di dirci Praver che vuol dire e su cosa insomma, di cosa si parlerà principalmente venerdì. Buonasera e grazie di questa possibilità. La nostra iniziativa che va fatta il 22 febbraio, il 22 novembre, cioè questo venerdì praticamente all'Esnia. Prima di tutto per parlare di Praver, che è un progetto israeliano. Non è nato oggi, ma è stata l'idea di Begin, l'ex proprio primo ministro israeliano. È quello che dice di cacciare tutti i palestinesi che vivono nel deserto del Negev. E poi è stato morto il progetto e è rinato di nuovo tramite questo Braver, che è un politico israeliano da 5 anni fa. E se ne parla del Knesset israeliano da 5 anni fa di questo progetto. Però cioè, poche settimane fa è stata approvata diciamo la prima lettura legale nel Knesset israeliano, il che vuol dire che vanno avanti a fare questo progetto. Questo progetto praticamente danneggia la vita di tantissimi palestinesi e poi europei palestinesi del 48, botte dei palestinesi del 48 e quasi 850.000 ettari di terra. Il che vuol dire pure questi 850.000 ettari di terra sono la metà delle terre palestinesi occupate nel 48. In queste terre ci sono 35 villaggi, vanno tutti quanti distrutti e questi 35 villaggi sono, diciamo, ci vivono lì quasi 40.000 palestinesi. Questi 40.000 palestinesi saranno nel nulla, senza futuro, senza terra, senza niente praticamente. E quindi perciò noi abbiamo organizzato questa iniziativa per parlare di questo piano, il piano di Praver. Perché purtroppo c'è l'autorità palestinese, ma anche l'OLP e come rappresentanti dei palestinesi parleranno di questa cosa. Abbiamo visto che ci sarà pure un vertice fra, diciamo, gli israeliani e i palestinesi per altri motivi, per altre cose, vicinissimo in questi giorni, nel 2 dicembre. E quindi appunto da qua non sono, cioè, ha fatto una mossa soltanto, diciamo, i ragazzi, i giovani nei territori palestinesi occupati nel 48 si sono mossi, hanno fatto delle iniziative. La prima era nel 15 luglio scorso, l'hanno chiamata pure la giornata della rabbia. Hanno fatto un'altra pure, cioè, nel 1 agosto con lo stesso nome, la giornata della terra, della rabbia, e ci sarà pure l'11 e il 30 novembre un'altra più grande nazionale e internazionale. Ci hanno chiamato tantissime persone, hanno contattato tantissime organizzazioni nel mondo, sia palestinesi che altri, e noi abbiamo risposto come un movimento giovanile, diciamo, all'appello, alla chiamata di questi movimenti giovanili in Palestina, dove ci sono stati molti scontri fra questi giovani e tanti altri sono stati arresti. Perciò viene da qua il nome Radici, per dire che siamo legati proprio alla nostra terra, tutta la terra in tutta la Palestina, e perciò il sottotitolo era Praver non passerà, perché questa è la voglia e questa è la decisione di questo settore giovanile in Palestina. Shining hope for you and me. I'm back. Wagon smashing this rapping thing. Rappers think they're dapper inside the badness they're rapping. Quindi stavamo parlando di questa iniziativa Praver non passerà, che ci sarà venerdì prossimo alla Sniati. Va di dirci insomma un po' come sarà articolata e come inizia, a che ora inizia e che ci sarà durante tutta la serata. Noi abbiamo invitato un gruppo di Dabka, cioè la danza palestinese, diciamo, della Danimarca. Sono un gruppo di bambini, di giovani, di ragazzini, maschi e femmine, che stanno cioè, che hanno questo gruppo che si chiama Jafra. Jafra, cioè, comunque, una parola molto culturale, cioè proprio legata, diciamo, alla cultura palestinese, alla storia palestinese, si utilizzava come inizio per iniziare le canzoni che rappresentano, diciamo, la nostalgia per la terra, la nostalgia per i vecchi tempi. E questa Jafra sono tutti quanti, appunto, come avevo detto prima, cioè fatta di ragazzini piccoli, il più piccolo ha 80 anni, forse il più grande ha 33 anni. E sono, diciamo, una generazione intera di palestinesi che sono nati nella diaspora. E nonostante questo fatto, ma comunque sono legati moltissimo alla loro terra, si presentano pure nella Danimarca, in vari posti, come palestinesi e niente altro. E vale dire che questi bambini tutti quanti, soltanto, cioè, per darvi un'indicazione, che sono questi ragazzi, sono tutti quanti figli di persone che hanno vissuto e hanno sofferto l'assedio israeliano di Beirut nel 1982, e quindi pure le loro famiglie, cioè purtroppo i loro genitori fino ad oggi soffrono, diciamo, sulla loro salute, cioè hanno delle malattie a causa di quella esperienza bruttissima. Anche loro, quando le vedete, cioè, pure loro hanno assorbito, hanno preso questa sofferenza dei loro genitori, perciò la DAPCA per loro, diciamo, un mezzo per tornare alla terra, per rappresentarsi, per esprimersi e per tenere la loro identità. E quindi siamo stati fortunati ad invitare queste persone. Oggi sono in Sardegna a partecipare, a fare dei spettacoli di Dabka, ma anche di teatro, diciamo, al Festival Palestinese del Film annuale. Perciò rientreranno a Roma il 22 e faranno questo, diciamo, questa serata culturale palestinese, ma anche italiana, mista, diciamo, una cosa di intercultura all'ex Snia. Questo dalle 19. Dalle 19. Esatto, dall'ora 19 fino, diciamo, fino tardi alle notte. E poi ci sarà pure insieme a noi, diciamo, il gruppo delle danze di Piazza Vittorio. E il punto, diciamo, l'idea era di fare questo incontro fra la danza palestinese, ma anche con la danza italiana culturale. Perciò volevamo sperimentare queste cose, si vedono, si incontrano, scambiano un po' di esperienze, un po' di cose. Anche ci sarà con noi un rapper siriano, bravissimo, un ragazzo appena arrivato in Italia, da poco proprio. Dalla Siria? Esatto, dalla Siria. Sarebbe interessante parlarci e capire bene che cosa ha da raccontare dalla Siria. Infatti, tutte le sue canzoni, cioè, oggi... Ma lui viveva in Europa o viene direttamente dalla Siria? No, veniva direttamente dalla Siria, un studente, ma era un cantante prima di arrivare qua. Le sue canzoni tutte quante sono in arabo, però si sente proprio quando canta che cosa vuole dire, cioè tu le senti soltanto guardandolo. Ma è palestinese, siriano? No, proprio siriano, una delle città proprio quasi distrutte oggi in Siria. E quindi l'abbiamo pure invitato per, diciamo, chiudere questo cerchio della Siria, della Palestina, cioè pure alla Danimarca insieme all'Italia. E quindi questa era l'idea di fare questo misto culturale in questa sera qui. Ovviamente pure ci sarà la cena palestinese, quindi facciamo tutto quanto insieme. Senti, ma ci sarà anche un momento di dibattito, di discussione, in cui insomma si parla di questo Praver, prima, dopo, visto che c'è comunque un collegamento con un rappresentante dei comitati che si stanno occupando, battendo proprio contro le, diciamo così, l'ennesima presa della terra da parte di Israele. Sì, infatti avremo questo collegamento via Skype con una ragazza palestinese che si chiama Siwar Asli, e lei è un attivista, uno dei organizzatori di tutti questi movimenti che fanno in Palestina. Ci siamo sentiti, abbiamo avuto un contatto con lei, le abbiamo proposto l'idea. Noi non ci conosciamo, però, perché tutti quanti siamo palestinesi, abbiamo le stesse problemi, le stesse preoccupazioni, e per loro era una grande mossa. Veramente sono rimasti molto contenti e molto felici del fatto che si parlerà in Italia di questo progetto. Aspettavano che si parla di questo progetto, ad esempio, cioè, diciamo, in Palestina stessa, dei palestinesi, dei partiti politici palestinesi. Questi giovani sono usciti contro la volontà dei loro partiti politici palestinesi nel 48. Neanche quelli parlano, neanche, diciamo, l'autorità palestinese, neanche l'OLP. E quindi questa soltanto, cioè, un movimento giovanile puro, perché i giovani di oggi sono per fortuna molto colti, molto attenti, molto svegli, perciò hanno deciso di fare questa mossa, di prendere la decisione, e per quello sono scesi per strada. Perciò sarà questo collegamento proprio, forse sarà la seconda cosa che faremo nella nostra iniziativa, questo collegamento con Siwar Asli. Va bene, quindi tutto ciò venerdì 22 all'ex centro sociale ex Snia Viscosa, che si trova via Prenestina 173. Insomma, invitiamo tutte ad esserci, soprattutto perché insomma è anche un momento, visto la settimana dopo ci sarà questo vertice Italia-Israele, insomma un momento anche per riparlare e riflettere su tutto, insomma, quello che sta succedendo in Palestina, ma anche collegandolo a quello che succede in Italia, perché poi di questo vertice ne abbiamo parlato un po' nelle settimane precedenti. Gli accordi economici, ma anche e soprattutto militari, di scambio di idee militari e di armi stesse, è uno dei cardini, dei punti fondamentali. Armi che ovviamente, lo so, di Israele ha sperimentato, forme di controllo, forme di estradizioni, forme di allontanamento che Israele ha sperimentato sulla terra di Palestina nei confronti dei palestinesi, ma anche nei confronti di vari migranti che nel corso degli ultimi anni soprattutto si sono entrati nel territorio dello Stato di Israele, per cui insomma un modo per andare a riparlare e a capire là dove insieme tra persone che si oppongono a questi progetti si può in qualche maniera riprendere anche una lotta insieme, visto che il prossimo 30 novembre è stata prevista una manifestazione nazionale a Torino, e poi il 2 dicembre insomma ci saranno varie azioni in tutta Italia, visto che il vertice proprio tra Letta e Netanyahu ci sarà il 2 dicembre. Don't know if my eyes are green or gray. May is the time when the flowers bloom and strawberries are so good. May is the time when there's so much light and everything seems to be right. So we sing. Something new, but I still don't know if my eyes are green or blue. Can you hear there is something in the air? But I still don't know if my eyes are green or gray. May is the time when all the clouds are gone and every color lights up. May is the time when we sing, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 87.9, sempre Radio Onda Rossa, continuiamo a 19.31 minuti primi, continuiamo con la diretta. Insomma, abbiamo prima parlato di questa iniziativa che ci sarà a Roma venerdì prossimo, ma avevamo anche intenzione appunto di continuare a parlare di questo incontro che ci sarà appunto il 30, il incontro in realtà del 2 dicembre prossimo, questo incontro tra l'Italia e Israele, tra Letta e Netanyahu, per ratificare una serie di accordi soprattutto per quanto riguarda le armi. In questi giorni insomma stavo leggendo diverse notizie che di cui devo dire che i giornali ne parlano veramente poco, che sono di nuovo i bombardamenti su Gaza, e in particolare insomma su Nella News era uscito questo articolo: contro i migranti arriva il drone europeo, accordo tra 7 paesi UE per la produzione di aerei senza pilota che completano con Israele e USA, obiettivo gli immigrati clandestini, intanto Tel Aviv bombarda Gaza. E siamo al collegamento telefonico con Antonio Mazzeo, ciao. Ciao. Allora, con te abbiamo già fatto una trasmissione, volevo insomma innanzitutto ritornare appunto su questa questione dei droni, perché questo incipit dell'articolo mi sembrava molto interessante e anche una svolta, diciamo così, successiva sull'impiego di questi droni, e poi insomma anche un commento su questo vertice che si avvicina e se abbiamo notizie in più su quello che si andranno a dire. Ma allora, innanzitutto questa notizia dei droni, l'Unione Europea sta lavorando da parecchio tempo, anche l'agenzia Frontex, che è l'agenzia che dovrebbe fare il controllo alle frontiere ma che di fatto sta facendo la guerra sporca ai migranti nel Mediterraneo, opera da diversi anni proprio sulla ricerca e il finanziamento di droni spia che possono monitorare il Mediterraneo. In questo momento tra l'altro l'aeronautica militare italiana sta utilizzando i droni proprio nella cosiddetta operazione Mare Nostrum di, tra virgolette, contenimento dei migranti, ma ovviamente di vera e propria guerra dichiarata. Il vertice di Torino avrà tra gli altri uno degli obiettivi strategici proprio rispetto alla cooperazione in ambito militare, che sarà quella dell'intelligence, cioè di finanziare progetti italo-israeliani di monitoraggio, di controllo satellitare, e ovviamente pensiamo anche dal punto di vista dei droni, dove Israele tra l'altro è uno dei paesi all'avanguardia a livello internazionale, la produzione di questi sistemi di morte al bando della comunità internazionale, proprio perché violano profondamente i diritti umani. Senti, rispetto a questi insomma incontri, che questo incontro che ci sarà a novembre, ci sono delle novità insomma anche su sappiamo insomma che in questo ultimo periodo c'è stato diversi incontri militari tra Italia e Israele, e diversi apparati della nostra aeronautica, diversi dirigenti della nostra aeronautica si sono recati in Israele. Hai insomma delle ulteriori informazioni su quanto sta avvenendo? Allora, soltanto negli ultimi 10 giorni c'è stata questa grossa esercitazione che si è sviluppata nel deserto del Negev, a cui hanno partecipato Stati Uniti, Italia e Israele. Di fatto l'aeronautica militare ha inviato i cacciabombardieri Typhoon proprio a esercitarsi nel deserto, e qualche giorno fa il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare israeliana è stato ospite in Italia. Evidentemente soprattutto in campo aereo si sta sviluppando un'enorme partnership. Non dimentichiamo che proprio in Piemonte è stato concluso è stato costruito il primo monoposto, gli MB-336, che l'Italia Finmeccanica, linea Ermacchi, trasferirà a Israele. Si tratta di 30 monoposto formalmente dichiarati come addestratori, ma di fatto sono aerei che possono essere tranquillamente convertiti anche per operazioni di attacco, di first strike, e comunque anche se fossero addestratori servono proprio a formare i piloti dei bombardieri israeliani che poi operano a Gaza, in West Bank, in Libano, e hanno operato anche in modo clandestino in Siria durante questa crisi che attanaglia questo paese negli ultimi mesi. Diciamo che si sa che in tutti i periodi insomma di crisi la spesa militare e anche le guerre sono poi il fattore che l'economia usa per uscirne, no? Così detto, insomma, uscire dalla crisi, si fa una bella guerra e così. Si sta preparando qualcosa oltre a tutto questo controllo, diciamo così, sui migranti, che mi sembra insomma l'operazione Mare Nostrum in Italia, ma penso insomma anche il resto d'Europa, non si faccia mancare niente. Questione delle continue esercitazioni, insomma, c'è qualcosa nell'aria? Ma c'è qualcosa, in questo momento Medio Oriente, Corno d'Africa, la regione dei Grandi Laghi, ulteriormente la situazione riprecipitata in Libia, l'Egitto eccetera, dimostrano che questo scacchiere geostrategico che sembrava essere superato da altri continua a essere veramente il centro del pianeta, il centro dei conflitti del pianeta. Ovviamente Israele, che ha avuto sempre una funzione di gendarme armato e di intervento vero e proprio bellico in questi scacchieri, ha tutto l'interesse a che si accentui la crisi. Non dimentichiamo anche quello che è accaduto in Libano proprio qualche giorno fa, l'attentato all'ambasciata iraniana dimostra dove probabilmente agenti segreti israeliani hanno sicuramente operato perlomeno in una funzione di sostegno. Ovviamente dimostra che Israele ha tutto l'interesse che si accentui la conflittualità in un'area che veramente è devastata dalle guerre, per cui e anche l'esercitazione fatta qualche giorno fa in Negev dimostra che ci si sta preparando ad operazioni di first strike, di colpire obiettivi strategici in quest'area. Infatti non è un caso, insomma, che oggi abbiamo anche presentato questa iniziativa che ci sarà a Roma nei prossimi giorni, che è proprio contro il progetto Praver, che sta decidendo, insomma, di eliminare definitivamente tutti i palestinesi dal Negev. Immaginiamo appunto a questo punto proprio per le esercitazioni, cioè hanno deciso che quello è un territorio buono per le varie esercitazioni di aerei e via dicendo, un po' come negli ultimi anni era stata la Sardegna. Sì, sì, no, ovviamente il Negev è stato sempre un poligono dove è stato sperimentato di tutto, anche armi all'uranio impoverito. Ovviamente in una logica di rafforzamento del dispositivo israeliano e soprattutto di questo ingresso, se non formale ma sostanziale, all'interno della catena di comando della NATO, ovviamente è una struttura fondamentale e che consente tra l'altro addestramento in una prospettiva di intervento in aree desertiche, Medio Oriente e ovviamente continente africano. Va bene, senti, io non so se hai da aggiungere qualcosa, se ci vuoi dire anche, insomma, delle novità, delle cose che hai scritto e via dicendo, se no, insomma, ci risentiamo anche la settimana prossima. No, sicuramente la cosa che preoccupa profondamente è quella della guerra ai migranti che si sta sviluppando nel Mediterraneo, dove ovviamente da una parte c'è l'intenzione di respingere, di consegnare alle marine del sud, particolarmente la Libia, ma dall'altra parte di sperimentare un dispositivo aeronavale che funzioni anche da vetrina delle armi italiane nel Mediterraneo, e ovviamente Israele è il partner ideale per presentare questi progetti di guerra del nostro governo. Come abbiamo il governo italiano ha pianto tanto quando c'è stato l'affondamento della nave, quando insomma muoiono diversi migranti, però insomma la guerra adesso non se ne parla più, le cronache, no? Quando ci sono le tragedie se ne occupano, poi dopo, il giorno dopo già sui giornali non se ne parla più. I migranti continuano ad arrivare, continua ad esserci una vera e propria guerra, tu la definisci così, insomma un vero e proprio contro l'arrivo di migranti nella fortezza Europa, visto anche insomma l'instabilità di tantissime aree del Mediterraneo o del Corno d'Africa, evidentemente insomma non è che sono finite, quindi la circolarità delle persone continua ad esserci e continua ad arrivare tramite le barche. Assolutamente, che si tratti di una guerra lo diciamo noi, lo dicono esattamente gli ambienti più conservatori delle forze armate, che giustificano il tipo di dispositivo militare che è stato allestito nel Mediterraneo. Non si tratta di imbarcazioni per la ricerca e il soccorso di migranti, si tratta di fregate lanciamissili, di aerei pesanti che imbarcano bombe a gravità, sistemi missilistici, la nave da sbarco con il corpo d'élite della Marina Militare, i Marines della Brigata San Marco. Ovviamente non sono dispositivi di soccorso, sono dispositivi d'assalto che spostano ancora più a sud la frontiera italiana per impedire che a questo punto le imbarcazioni lascino il continente africano. In questo senso il rafforzamento della partnership con la Libia, a cui spenderemo soltanto in questi ultimi due mesi, con cui spenderemo più di una decina di milioni di euro in finanziamento per addestrare le nuove forze armate libiche, le guardie di frontiera, è la prova che è in atto una guerra e che soprattutto c'è una proiezione avanzata delle forze armate italiane proprio a impedire non gli sbarchi ma proprio la partenza di queste imbarcazioni. visto che insomma gli sbarchi è un po' come quando i militari americani andavano in guerra e tornavano che morti, no? Insomma, sono immagini, questa questione dei migranti che muoiono, un'immagine insomma che fa piangere tanto anche la popolazione, anche il quotidiano, mentre quindi un po' come gli americani hanno deciso che è meglio il drone o comunque è meglio mandare altri a fare, oppure fate la guerra, insomma vi paghiamo affinché facciate la guerra fra di voi, così hanno deciso che dopo l'ennesima, quando è stata ottobre, insomma l'ennesima tragedia dei barconi, è meglio non far vedere sulle nostre coste che vengono affondati o che comunque si affondano barconi, perché i migranti che muoiono fanno tanta pena e poi la gente, non so, appunto si solleva un po', e quindi si sta decidendo insomma di controllare direttamente tutte le coste, soprattutto insomma la questione libica, con tutto quello che sta succedendo in Libia, insomma c'è stato anche insomma il governo italiano nelle sue massime rappresentanze diplomatiche negli ultimi mesi non è che se la sono vista sempre molto bene rispetto allo stare lì, e quindi pensi che in qualche maniera in Libia invece si sia stabilizzata questa posizione rispetto all'Italia e quindi questo anche addestramento dei miliziani libici nei confronti del controllo delle frontiere da parte dell'Europa? A questo punto parlerei di Italia, ma qui insomma le decisioni immagino che vengano anche oggi incontro con la, insomma si dice che si parla di TAV, ma poi la sostanza secondo me si parla anche di ben altro, e penso che la questione libica piuttosto che insomma ancora l'instabilità dell'Egitto siano questioni un po' più importanti per quanto riguarda tutta l'Europa. Ovvio, tra l'altro in questo momento c'è un ulteriore giro di vite rispetto all'addestramento delle forze armate libiche, c'è un progetto di addestrare da qui al prossimo anno più di 20.000 unità, 2.000 spetteranno all'Italia con questa nuova missione istituita il 1 ottobre di quest'anno, che si chiama MIL, missione italiana in Libia, che prevede la presenza di un centinaio di addestratori principalmente dell'arma dei carabinieri, in cui la funzione principale sarà quella di controllo delle frontiere, di controllo delle coste, ma ovviamente anche di addestramento in operazioni sporche. Questo è il ruolo che ha il nostro paese, non soltanto in Libia, perché anche in caserme italiane, ma penso soprattutto a questa famigerata COESPU, questa che si trova a Vicenza, che è diventata una vera e propria scuola dell'Africa, dove vengono addestrate le forze militari dei paesi più dittatoriali del continente africano, e questo nel silenzio purtroppo dei media, nel silenzio delle forze politiche e sociali, che non si rendono conto come il nostro paese stia sempre assumendo un ruolo devastante nel continente africano, ma in tutta l'area mediterranea, da Israele ovviamente sino alla Libia e altri paesi dittatoriali del continente africano. Senti, in questo insomma diciamo così che tutto l'apparato militare italiano diciamo che insomma l'Italia produce, anche del fatto che l'Italia produce tante armi se ne parla veramente poco, e si parla insomma più o meno della crisi che ci sta, chiudono tante industrie, chiudono tanti artigiani, la gente perde il lavoro, però tutto l'apparato insomma di vendita delle armi a livello economico e di vendite come sta messo? C'è una crisi anche questo, oppure diciamo che insomma come al solito cercano di uscirne così? No, allora qui bisogna fare un distinguo, e bisogna veramente cancellare un luogo comune, cioè il fatto che l'export di armi produca posti di lavoro. Sicuramente l'export di armi italiano sta crescendo, si sta sviluppando in modo esponenziale, sicuramente stanno crescendo enormemente i fatturati e il guadagno del complesso militare industriale italiano, penso a Finmeccanica e alle sue aziende, ma questo non significa assolutamente ridistribuzione della ricchezza e soprattutto occupazione. Selex, che è la società del gruppo Finmeccanica che produce sistemi e apparati di sicurezza, ha messo in mobilità 2.500 lavoratori, altre centinaia di lavoratori sono stati messi in mobilità nell'area campana legata da Alenia Armacchi e al sempre gruppo Finmeccanica, a dimostrazione che aumentano i fatturati, ma questo viene fatto pesare soprattutto con un taglio occupazionale. Così la smettiamo di dire che comunque le armi portino ricchezza e comunque le armi portino occupazione, tutto il contrario, sottraggono risorse finanziarie a investimenti produttivi, a investimenti che tra l'altro creerebbero migliaia di posti di lavoro, e al contrario stanno arricchendo soltanto gruppi finanziari che poi speculano in borsa, o peggio ancora hanno un ruolo devastante anche dal punto di vista della corruzione del sistema politico e giudiziario del nostro paese. Finmeccanica non è un caso che al centro delle inchieste giudiziarie in buona parte delle procure delle repubbliche italiane, proprio per le tangenti e per il modo con cui è stato oleato il sistema politico. È una dimostrazione della devastazione del cancro che oggi nel nostro paese produce Finmeccanica, senza dimenticare che poi scelte dissennate di politica estera, come sostenere uno stato canaglia come Israele o la Libia, ovviamente sono funzionali agli interessi economici di questi gruppi industriali. Ma Finmeccanica parteciperà all'incontro tra Netanyahu e Letta? Ovvio. E uno, si siederà proprio al tavolo? Assolutamente, c'è un comunicato stampa dell'Istituto di Cooperazione Italiano che mette tra l'altro tra gli obiettivi strategici soprattutto nel settore aerospaziale, dove ovviamente Finmeccanica c'ha un vero e proprio monopolio nel nostro paese. Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare riguarda un po' questo impiego dei carabinieri piuttosto che dell'esercito. Mi sembra che sempre di più sul territorio italiano stiano cambiando un po' il controllo, diciamo così, del territorio. Sempre di più si usa ormai, insomma, da diversi anni, però l'esercito per il controllo proprio della vita, con la scusa, insomma, dei siti strategici e via dicendo. Penso all'Aquila, piuttosto che quando tratta la Mondezza, piuttosto che ovviamente tutta la Val di Susa. E l'impiego appunto dell'esercito sempre di più in settore civile, mentre poi i nostri carabinieri o comunque stiano assumendo dei veri e propri ruoli quasi da mercenari, di addestratori e quindi soprattutto in missioni all'estero. Su questo, insomma, non so se ci puoi dire qualcosa. No, e allora hai toccato un argomento che è importante. Noi non dimentichiamo che siamo stati in Iraq e in Afghanistan non soltanto per l'egemonia degli interessi delle gruppi industriali o petroliferi del nostro paese in questi paesi, ma anche per garantire un laboratorio sperimentale alle nostre truppe scelte, per sperimentare esattamente pratiche di intervento, di controllo sociale, di controllo delle città, che consentono poi a questi militari, quando rientrano, di poter ripetere anche sul territorio italiano. Non è un caso che dopo queste missioni all'estero, come dicevi giustamente, è aumentato il peso della concentrazione della militarizzazione dei territori, la Val di Susa, la dichiarazione di siti strategici riferita a grandi opere, in cui ovviamente l'esercito ha questa sua funzione. I carabinieri, che tra l'altro è un corpo specializzato delle nostre forze armate, sta assumendo sempre più un ruolo di formazione a livello internazionale, non soltanto in Italia, non soltanto in Libia, ma ormai è presente in alcuni paesi africani a cui forniamo il sostegno. C'è una ridistribuzione in questo senso dei ruoli, ma ovviamente quello che più viene colpito è l'agibilità politica e i principi di democrazia del nostro paese, perché questa ipermilitarizzazione, questo controllo da parte delle forze armate di sempre più ampi spazi della società, ovviamente viene fatto a danno dei cittadini, a danno dei principi democratici, e ovviamente ne risentiremo il prima possibile. Quello che si sta sperimentando nel Mediterraneo, l'operazione Mare Nostrum, è anche questo un laboratorio per le nostre forze armate. Quel tipo di intervento, quel tipo di riduzione di agibilità e di libertà e di movimento dei migranti, un giorno verrà sicuramente fatto pagare anche nel nostro paese. Anche perché non dimentichiamo che ovviamente il militare immagazzina dentro di sé lo stato di guerra, per cui in qualche maniera agisce proprio sul territorio, in un territorio di guerra, quindi ha un carattere, non so, io anche molto devastatore. Posso pensare anche a molte volte a tutte le questioni che ci sono state degli stupri che i militari portano, insomma, non dimentichiamo l'ex Jugoslavia, ma ne sono usciti anche in Afghanistan. Posso pensare, insomma, a tutti gli eserciti, ovunque vanno, poi alla fine escono fuori torture, stupri e via dicendo, nonché anche una gestione del territorio appunto abbastanza appunto, direi proprio la parola devastazione mi sembra molto appropriata. Quindi ovviamente, insomma, tutto questo così come viene applicato quando andiamo a fare cosiddette missioni di pace in territori comunque sostanzialmente civili, perché non c'è una guerra in cui non ci sono eserciti che si scontrano, ma c'è comunque delle persone militari che occupano in qualche maniera un altro territorio, così, insomma, per decenni diffusa questa metodologia proprio Israele, nel senso che poi lo so, Israele fondamentalmente cosa ha diffuso in tutto il territorio mondiale, proprio questo metodologia dell'esercito che in qualche maniera controlla un territorio civile, quindi l'applicazione dell'apparato militare su un territorio comunque civile. sia nell'immaginario, ma poi anche nella pratica. Consentimi, non soltanto sui territori, perché il processo di militarizzazione è di presenza strutturale delle forze armate ormai in qualsiasi aspetto della vita, soprattutto nelle scuole e nelle università, e questo secondo me è un elemento che richiederà molta molta attenzione. Tornando anche alla questione di Israele, è attraverso la partnership universitaria che si è sviluppata questa santa alleanza, che poi vede soprattutto sul piano militare e della cooperazione industriale. Anche le forze armate stanno aumentando la loro presenza all'interno delle università, per cui quello che dovrebbe essere il centro di cultura di sviluppo democratico e che già subisce un processo di privatizzazione selvaggia, si aggiunge questo processo di militarizzazione della cultura e delle attività educative. Questo è un problema, perché evidentemente anche questo avrà degli effetti devastanti sulla vita democratica e sociale del nostro paese. Infatti, insomma, questa era la mia conclusione, che sempre di più appunto poi questo l'apparato militare, l'ideologia militare poi sta penetrando proprio all'interno di tutte le strutture civili, appunto, e l'università è sicuramente uno dei più importanti. Va bene, senti, io come al solito è sempre un piacere parlare con te, ne continuerei per ore, però il nostro tempo è quasi finito. Io ti richiamerei mercoledì prossimo, così insomma ci avviciniamo al 30 novembre e continueremo a capire, insomma, a analizzare un po' questo vertice, come andrà, come cambierà, o comunque come sta cambiando ancora adesso proprio la struttura dell'assetto poi geopolitico del Mediterraneo, ma non solo. Insomma, mi sembra che questa alleanza ormai tra l'Italia e Israele, che va avanti ormai da diversi anni, mi sembra sempre più stretta, e mi sembra un asse che sempre di più potrebbe cambiare, o comunque potrebbe gestire un po' di più tutto un cambiamento di assetto del mondo, insomma, del Mediterraneo in questo momento. Va bene, Antonio, ti volevo salutare. Grazie. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao. Va bene, questa insomma una lunga corrispondenza sempre molto interessante con Antonio Mazzeo. Potete leggere sempre le sue cose, le sue analisi molto lucide su antoniomazzeoblog.blogspot.it. insomma, una persona che analizza tantissimo tutte le questioni dell'assetto, insomma, proprio dell'uso di alcune armi e di alcuni protocolli, che appunto anche in questo caso tutta la questione Mare Nostrum, nata su un barcone affondato e poi subito trasformata in un'azione militare di controllo di tutto il Mediterraneo, ma appunto come scusa anche per controllare le coste, in questo caso in particolare della Libia. E parlava anche Antonio di università. Vi ricordo che il prossimo 26 novembre, sempre in vista del vertice che ci sarà il 30 novembre e il 2 dicembre tra Italia e Israele, ci sarà una importante iniziativa dove si andrà proprio a toccare quelli che sono appunto le ingerenze del tutto il mondo militare nell'accademia e nella cultura. Ovviamente, insomma, come ci diceva pure Antonio, l'università è uno dei primi punti, uno dei primi tasselli da monopolizzare e da controllare. E vi ricordo insomma ancora una volta l'iniziativa di venerdì 22, non so se ce la vuoi ricordare tu? Vabbè, ricordiamo, venerdì alle 19 il 22 novembre all'ESNIA. Vi aspettiamo tutti quanti, siete invitati. Via Prenestina 173. Abbiamo parlato del deserto del Negev, che, come ci ha detto anche Antonio, insomma, sempre di più un territorio in cui le persone devono andare via perché serve a scopi militari le esercitazioni. Insomma, l'Italia in qualche maniera ne ha subite tantissime, insomma, la Sardegna purtroppo ne ha subite tantissime parti del suo centro, proprio del territorio del centro della Sardegna, sono state, come Quirra in particolare, ma non solo, affittate proprio per sperimentazione, anche probabilmente anzi sicuramente, dell'uranio impoverito. E poi insomma, quando anche qui succedono alluvioni, succedono frane, succedono crolli, succedono terremoti, facciamo il minuto di silenzio. Sicuramente tutto l'assetto geopolitico geologico e anche naturalistico dell'Italia, in particolar modo risente totalmente se buchi una montagna per fare un TAV, ma anche se buchi la montagna per farci dentro la postazione della NATO, oppure se bombardi un territorio perché lo affitti a tot lire euro allora per sperimentare insomma nuove bombe, microbombe all'uranio, per poi insomma bombardare appunto Gaza o l'Iraq e via di l'Afghanistan, ne potremmo raccontare tantissime, per cui sicuramente tutte queste cose sono alla fine concatenate. La linea presa dai governi, ormai si può quasi parlare dei governi mondiali, forse possiamo escludere il Sud America in questo momento, è quello di andare verso la distruzione totale, perché ormai non è che l'autodistruzione totale, perché non è che penso che poi in qualche maniera tutto ciò che non torni indietro, insomma l'Italia è un territorio che nel corso dei suoi decenni di catastrofi tra virgolette naturali ne ha pagate tantissime e lo continua a fare, per cui insomma la nostra solidarietà ovviamente va alla Sardegna, sperando insomma un territorio già molto martoriato, che questa ennesima alluvione possa in qualche maniera anche sollevare un po' la popolazione italiana e dire anche basta, perché a un certo punto insomma bisognerà anche che ci si svegli un pochetto e si dica basta. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a Speciale Palestina alle 18:15 la settimana prossima, ricordandovi insomma che si stanno preparando i pullman per andare a Torino, e vi mando un pezzetto musicale e poi vi racconto un po' dei pullman che si stanno facendo. Little man never did exams, got a particular bigger plan, flipping grams when a bigger man in his gang gave him a stick to bang, or maybe just hold, cause no one thought he would kill a man, till he caught a silly billy villain chilling in the jam, sipping sham, spliffing his hand, triggered in the jam, bang bang, biddy bang, biddy biddy bang, now he's in the can, thinking damn what a pity fan, rappers are yapping and flapping their lips, about how they're packing and clapping their sticks, has to be big, the impact it has on the kids, tell me where the factory is, the government killed it, just stacking their chips, you wonder why the youth them are strapped and they're pissed, if not a nine, it's a knife getting jabbed in your ribs, people die for the petrol and gas and I whip, in London, you can get shanked in the heart, still the government, put more text in a rock, ignorant little spitters are talking greasy, cause they bitten bits that they saw on TV, if all you rap about is the holes in the dope, it's already too late, you sold them, you sold the jokers, act like you know but you don't, cause there's little kids dying they all over to the globe. They used to put my lights out on nights out, but days in spent blazing, didn't tell me to navigate ways in the mazes, a white out, it's right out, amazing to think, now let the revolutionary sing, stand up for your rights and fight for revolution. Free your mind and soul, ignite the constitution. Cause they're killing us all. They're killing us all. Chilling with his fam in a flash, flipping hands, being rats. But there's more than one way to skin a cat. Gotta make up for the things that he didn't have. Wanna be the damn little man's got bigger plans. Wanna be bigger than Jigger and kill a can. Put your dad while he's sitting back, sipping out a Guinness can, feeling trapped. I'm with a chit chat, little man, stealing crack for a bit of cash. Got his shit on smash, feeling stacked. Living isn't bad till the cat got in his flat and hit him with a bat. And he found where he had his stash, little man vowed that he'd get him back. Now he really mad. Feeling militant, put on his Timberlands and then into the flat with the cats that had jacked him. Was chilling at ball for the gas, filling with gas, and did a match. Put it in a rand, and it went kabang. But the cats, whole family was in the flat. Now it's definitely death or prison for little man. He could have been one in a million. He could have had the whole world in his hands. We shitted the fan when the cat come back with the strap. Pull the trigger back. Finish little man in the flash is a fact. They used to put my lights out on nights out, but days in spent blazing, didn't tell me to navigate ways in the mazes. A white out, it's right out, amazing to think, now let the revolutionary sing. Stand up for your rights and fight for revolution. Free your mind and soul, ignite the constitution.

Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Yeah. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child. Vabbè, non ve la faccio risentire da capo. Come ben potete notare, anche non c'è neanche stato il GR il mercoledì, insomma è un po' così, per cui vi lasciamo in compagnia di ancora un po' di musica, visto che la coordinamenta inizierà alle 20:30 fino alle 21, e visto insomma la loro partecipazione, è stato al vertice contro il vertice tra Hollande e Letta. Now I'm sure that I want only you, but I still don't know if my eyes are green or blue. Now I'm sure that I want you to stay, but I still don't know if my eyes are green or gray. May is the time when the flower is blue and strawberries are. When there's so much light and everything seems to be right, so we sing, oh. Can you see tonight there is something new? But I still don't know if my eyes are green or blue. Something in the air, but I still don't know if my eyes are green or gray. May is the time when all the clouds are gone and every color lights up. May is the time when we no longer fight and everything will be fine. So we sing. Turned 21, that's right, she was grown. Every night from the Polish department that caused mama to have a heart attack. Mama had a heart attack. Little sister got the news and the sheep came a sneaking back. But it was too late. There wasn't a thing that she could do. But Neil let her mama's cry.